brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi chiedo un grande senso di responsabilità e una grande sincerità. Al di là di quello che si può dire ufficialmente, quello che possiamo dire quando vogliamo sentirci buoni, retti, vogliamo sentirci a posto con la coscienza, vogliamo sentirci civilmente allineati con i massimi principi della convivenza umana, ma quanto ci dà gusto farci cavoli degli altri? Guardate che è una cosa insopprimibile, è un piacere sottile, è una lussuria impalpabile ma che ci prende e non ci lascia mai nel corso della giornata. Oggi assistiamo a una grande rappresentazione pubblica, informativa, giornalistica di questa nostra banalissima piccolezza umana, ammantata dietro la necessità di svelare gli aspetti ambigui di alcuni personaggi pubblici, di alcuni uomini legati alle istituzioni, di fare una grande campagna moralizzatrice, di prendere le distanze, di osservare, sottolineare, accennare quanto stiano decadendo i costumi generalmente, di presentarsi come immarcescibili esempi di rettitudine o di tenuta rispetto ad alcune norme scritte con lettere di fuoco nelle tavole della legge, secondo cui bisognerebbe avere una corrispondente attività anche nei propri fatti privati, a seconda di ciò che si proclama di essere, dell'ideologia che si porta, del pensiero politico, della visione della vita, la Weltanschauung, di quello che volete. Insomma, nonostante tutto questo, la nostra piccola e quotidiana curiosità di sapere cosa fa il vicino di casa quando ha chiuso quel portone, quali sono i torbidi recessi della mente contorta del nostro collega o della nostra collega d'ufficio, quanto mai sarebbe interessante avere conferma di ciò che si sospetta rispetto al passante, alla passante, al vicolante, al verduraio, all'idraulico, alla maestra dei nostri figli e via dicendo. Questa è una piccolezza umana, dobbiamo farci conti, amiamo moltissimo, avremmo moltissimo sapere il privato di ogni persona che ci sta accanto. Devo dire che pubblicamente abbiamo una sorta di affrancamento a questo nostro atteggiamento. Sembra che in questo momento la cosa più interessante, più importante, la più palpitante delle notizie è quella di sapere quali sono i nomi che tutti sussurrano nelle redazioni dei giornali ma nessuno dice, di coloro che sarebbero coinvolti nei biechi ricatti dei trans romani, oppure sapere quanto sono legati alcuni personaggi che vediamo sorridenti e sgambettanti nei più grandi talk show italiani con torbide frequentazioni di piume di struzzo, di calza rete, di ambigui e sotterranei accoppiamenti. Beh, 800 24 00 24, questa mattina confesseremo la nostra debolezza. Sky TV, sicurezza e investigazione. Stiamo preparando la nuova stagione su Sky TV. Tanti format, speciali e interessanti sorprese. Sky TV, sicurezza e investigazione, solo sul canale Sky 881. Casualmente, nella giornata di ieri, su suggerimento di una mia lettrice su Facebook, sono andato a scannellare dopo il proibitissimo canale 800 del bouquet del mio televisore e ho visto, dopo qualche scannellata, Spy TV, un canale televisivo interamente dedicato ad oggetti per spionaggio di fatti personali. Certo, non sono ammantati dietro questa fosca destinazione d'uso, sembrano tranquilli oggettini che ognuno può usare per avere più strumenti e più vari strumenti per lavorare, per svolgere professioni, per studiare, insomma per darsi da fare. Ciao a tutti, sono Maria Grazia Conti, la vostra esperta in prodotti Investigatù. Oggi vorrei parlarvi di un nuovo interessante prodotto Investigatù, la SIM Card Spy, un lettore di SIM card USB. Grazie al software in dotazione potrete immediatamente vedere e salvare gli ultimi 20 SMS cancellati o qualsiasi altra informazione che credevate perduta. Mi sono divertito, ho guardato questo oggettisca. Certo, la lettore di SIM card del telefonino viene venduto come qualcosa che può servire se noi casualmente abbiamo perso qualche informazione della nostra SIM card. Casualmente però il punto di attrazione di questo gadget è che può riportare visibili gli ultimi 20 SMS cancellati, le ultime 20 telefonate cancellate, gli ultimi 20 numeri telefonici cancellati. Immagino, ma lo dico soltanto perché sono malizioso, soltanto perché ho uno spirito malversato, soltanto perché mi piace pensare male, forse perché anch'io ho la coscienza sporca. Immaginate quale sarebbe l'effetto di fare un piccolo passaggino serale nella SIM card dell'oggetto della vostra passione, quando è addormentato nel lecito talamo coniugale, prendere un attimo il telefonino, sfilare la cartuccella, infilarla in questo oggettino e vedere se gli ultimi SMS cancellati tante volte nascondessero qualcosa. Ciao a tutti da Maria Grazia Conti, la vostra specialista in prodotti Investigatù. Ancora una volta con voi per parlarvi di un nuovo meraviglioso prodotto, l'orologio microcamera. Questo meraviglioso prodotto è il primo registratore con telecamera digitale miniaturizzato, così piccolo da poter essere inserito in un normale orologio da polso. Ma vediamo come funziona. Per attivare la registrazione o fare foto digitali, bisogna prima di tutto premere il pulsante laterale per accendere la telecamera. Premendo il tasto centrale, la camera... Bello, divertente. L'orologio che fa fotografie, fa filmati, registra, invisibile, oggi con la gadgettistica che c'è esistono un'infinità, telefonini che fanno bellissime riprese ad alta definizione, piccole camere uno può portarsi bene, perché bisogna tenere nascosto dentro un orologio una microcamera? Poi ci si meraviglia se negli incontri amorosi, nelle fugaci fughe domestiche, nelle clandestine frequentazioni, non si è più così compatti e così tranquilli come si era una volta. Con la penna videocamera potrete riprendere tutto ciò che volete in qualsiasi momento. La penna possiede una memoria di 4 giga per oltre 10 ore di registrazione audio-video e grazie al suo microfono super sensibile incorporato potrete registrare all'interno di un raggio di 15 metri quadri. Approfittate di questa eccezionale offerta. Con la penna videocamera potrete registrare e riprendere tutto ciò che volete. Anche la penna è molto divertente, interessante, una bella penna, sembra di quelle blasonate con il marchettino bianco sopra, somiglia da lontano, immaginate una bella riunione fra colleghi, immaginate nel corso di un'importante stesura di un contratto, immaginate da un notaio, immaginate prendere appunti frettolosi nella propria scrivania quando magari parte del proprio personale subordinato si trova accanto a quella scrivania in atteggiamenti non proprio professionali. Potrebbe accadere, non dico che non accade, fa parte della nostra malizia pensare che possa accadere, ma adesso con la penna spia ne avremo certezza. Da quando questa penna riesco a semplificare tutto il mio lavoro, adesso ho una pendrive, un registratore digitale e una videocamera, tutto in un'unica soluzione. Grazie penna videocamera. Anch'io utilizzo la penna videocamera, un pratico, semplice e comodo dispositivo. In un'unica soluzione consente di avere una grande e capiente memoria di 4 giga dove posso salvare tantissima musica. La penna, utile e pratica e comoda in ogni occasione. Un registratore digitale vocale che è importantissimo soprattutto nel mio lavoro. La videocamera è un momento di divertimento e relax insieme agli amici, ne rimangono sempre sbalorditi quando la tiro fuori. Grazie penna videocamera. Questa è una rassegna di testimonial che hanno usato la penna videocamera, sono tutti felici e contenti, per da quando ce l'hanno gli loro affari vanno meglio. 800240024, quanto voi vorreste avere la penna videocamera? Quanto vi piacerebbe avere l'orologio spia? Quanto vorreste avere il lettore delle SIM cancellate dei vostri amanti, dei vostri sospettati e dei vostri vicini di casa? Quanto vi piacerebbe farvi i fatti altrui? Quanto vi piacerebbe poter passare attraverso la gente? Ma diciamolo, può essere magari soltanto una mia idea, nessuno ha questa preoccupazione, passare tra la gente e riuscire a cogliere pensieri riposti, intimi, nascosti, rubare l'intimità alle persone che abbiamo attorno. Naturalmente sarei contento se tutti dicessero che questa è soltanto una mia fissazione, se a nessuno interessa, ma qualcuno ha pensato che ciò possa essere possibile, possa verificarsi. Ieri ho visto, sempre nella mia serata televisiva, Chiambretti Night, che presentava un film che, secondo Tati Sanguinetti, anticipava profeticamente alcune vicende che stanno appassionando moltissimo le cronache dei giornali. Questo film era Sexual Radar. Il regista, l'autore, lo scrittore, il realizzatore, il produttore, il factotum di questo film è Luca Martera, questa mattina in studio. Luca, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa hai fatto te? Ho pensato di aggiornare ai tempi nostri la Psicopatia Sexualis di Krafft-Ebing, il primo manuale sulle deviazioni sessuali, che oggi non si chiamano più, per carità. Oggi si chiamano molto elegantemente parafilie, perché le perversioni forniscono una connotazione negativa. E quindi, partendo dalla Psicopatia Sexualis, mi è piaciuto andare ad indagare sulla sessualità ai tempi del globale, partendo però da una contraddizione molto italiana. Noi non abbiamo tecnicamente bisogno dello psicologo, perché c'è proprio il cortile. L'italiano, a differenza dell'inglese, dove che si è sempre occupato di privacy, perché è nato lì il concetto di privacy per pagare le tasse, da noi invece il cortile, la piazza, la terrazza, per ragioni climatiche, hanno sostituito il bisogno dello psicologo, perché abbiamo un bisogno innato noi italiani di farci i fatti degli altri. Quindi questi sono luoghi fisici che amplificano il nostro piacere, il nostro desiderio di farsi i fatti altrui. Il tuo film, che è un film autoprodotto, un film che stai cercando di distribuire, un film che ti hanno subito detto no, non si può, perché tocca punti molto delicati. È la storia di un investigatore specializzato nel trovare, inventarsi giuste cause per far licenziare dei dipendenti. A un certo punto si accorge di avere una sua particolarità. Qual è la particolarità? La particolarità è quella che, dopo una sessione di financial domination, per i non addetti ai lavori... Spiega cosa si tratta. Sì, consiste nel farsi spillare quattrini a distanza da money master, cioè dominatrix specializzate nel far sentire il senso di colpa a gente che ha guadagnato troppo senza successo, senza dignità, senza merito. Ma esiste veramente questa pratica? E dall'Accademia della Frusta è ritenuto un reato al limite della circonvenzione di incapace, nel senso che le professioniste del sesso disdegnano questo tipo di pratica, che è appannaggio soprattutto di ventenni agguerrite, soprattutto americane, inglesi o tedesche, che appunto hanno trovato questo passatempo e che le fa guadagnare. Anche che immagino che dare due scudisciate nel sedere a un top manager siano capaci tutti, ma portarlo a dei sensi di colpa sul piano finanziario bisogna avere degli strumenti. Appunto, lasciate perdere tutto il bondage, il sadomaso, le fruste, tutta roba vecchia. XXI secolo è sadomaso mentale, umiliazione cerebrale, che fa appunto come il Madoff della situazione, fa sentire, fa scaricare i sensi di colpa di questa gente che è costretta magari a licenziare in un giorno 20 persone e deve in qualche modo scaricarsi. E quindi qualcuno dice quanto è infame, quanto ha sbagliato, quanto non capisce niente, e lo fa sentire molto male. Quindi la tecnologia entra fortemente e si associa al senso di desiderio, di concupiscenza, di rapire e capire i fatti propri, i fatti altrui. Abbiamo al telefono, ci ha chiamato Vincenzo Marchese, che è il responsabile di Spy TV, la televisione che ho scoperto ieri sera e che mi ha affascinato. Vincenzo Marchese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come nasce l'idea di fare una televisione dedicata alle tecnologie per lo spionaggio personale? Devo dire una cosa a priori. Spy TV è un canale che si occupa di sicurezza e investigazione, quindi come tema principale era appunto la sicurezza. Visto e considerato i tempi attualmente un po' particolari, tutti cercano sicurezza, tutti cercano... In questo particolare momento di stare tranquilli. Ah sì, ho visto, c'era anche una pubblicità di una cortina fumogena antiladro, che quella è una cosa interessante, sì. A me interessava però questa televendita di gadget simpatici, divertenti, sono oggetti da agenti segreti, ma che allo stesso tempo, strizzando l'occhio, si capisce che servono anche per alimentare il nostro lecito desiderio di sapere i fatti altrui. Infatti, in questo caso la penna videocamera nasce da un progetto ludico, cioè non utilizzare più la fastidiosa per dire telecamera con batterie, cassette e quant'altro, invece con un semplice oggetto di piccole dimensioni hai sempre appresso un oggetto che ti riesce a fare riprese. Ora, questo ovviamente poi sta a chi lo usa, secondo degli usi che se ne fanno, più o meno buoni. Sì, voi intanto specificate che l'uso esatto. spionistico è un uso non considerato dalla legge, però la lettrice di SIM, di SMS cancellati è una grande tentazione, diciamo la verità. È una grande tentazione, però a volte è capitato di cancellare magari un messaggino arrivato dalla banca o qualcosa che per errore cancelli un numero di telefono mandato da un amico o da una persona importante e poi in quel modo lo puoi ritrovare. Ecco, lei ha un'idea del suo pubblico, delle persone che seguono il suo canale, del tipo di interesse? Abbiamo avuto tantissime mail, il canale è seguito, quindi comunque la gente, anche se ha fatto finta di niente magari fino adesso, invece no, è interessatissima a questo tipo di prodotti, interessatissimo al canale, cioè come investigazione, perché noi facciamo anche degli speciali investigativi o sulle forze dell'ordine, quindi su tutti i tipi di sicurezza e su tutti i tipi di investigazione. No, lì sono proprio dei format anche di fiction, di ricostruzione di fatti celebri, quindi è un canale articolato, però mi interessa la griglia della parte promozionale, sono questi gadget meravigliosi che abbiamo visto soltanto a volte reclamizzati in siti internet, abbiamo sentito parlare, adesso sono entrati come il robot multiuso, come il lucidatutto, come la cintura vibrante, come il miracoloso strumento per lavarsi i piedi nell'immaginario casalingo italiano. 800 24 00 24, il tema è chiaro: quanto ci piace e cosa faremmo per sapere i fatti altrui. Nel buio, nella confusione, i parenti aumentano di grado, il figlio, dico io, ma fatevi uno schedario come il mio. Là dentro ci sono tutti i dati sui collaboratori e funzionari della nostra azienda, inclinazioni politiche, derivazioni culturali, parentele vincolanti e perfino inclinazioni sessuali che a volte possono risultare illuminanti. C'è anche la mia scheda. Certo, c'è anche la sua. Anzi, questo è un funzionario Rai che se la prende con un suo dipendente, che non ha ben indagato su alcuni rapporti esistenti fra vari personaggi. Stiamo parlando appunto di possibilità, capacità, desiderio, ancora di più libidine, di farsi fatti propri privati del nostro vicinato, delle persone che conosciamo, delle persone eccelse come delle persone banali, comuni. Vorremmo tutti avere probabilmente il sexual radar, che è il radar che legge nei pensieri segreti delle altre persone, che è anche il titolo di un film del regista Luca Martera, che abbiamo oggi in studio, che ha fatto questo film, dove un signore ha questa capacità segreta, improvvisa, di leggere nei pensieri degli altri. Luca, andiamo allo specifico, come accade? No, solo una piccola parentesi, perché si chiama Sexual Radar. L'idea me l'ha dato il cosiddetto gaydar, che sarebbe il radar gay inventato o attribuito a Franco Grillini, il quale, quando è diventato parlamentare, si è, presentandosi a Montecitorio, ha captato con la sua antennina una settantina di parlamentari di tutti gli orientamenti sessuali, che poi naturalmente... Il gaydar, che sì. I gay dicono di avere un sesto senso quasi istintivo e fisiologico per capire dove c'è area di gaiezza nel loro pubblico, e lui l'ha messo in atto. Quindi a me sì, interessava invece estendere questo concetto del gaydar al sexual radar, che la capacità che ha questo investigatore specializzato nel fabbricare le prove per far licenziare dipendenti scomodi, di individuare i gusti e le preferenze sessuali e che quindi mette in discussione tutti i suoi limiti, perché per molti le persone si dividono in normali o anormali, che non significa niente. Ma alla fine del film, del suo viaggio, lui constaterà che le persone si dividono in persone che hanno non patologie, ma passioni o preferenze comuni e rare. Alla fine per lui sarà una sorta di cammino di risveglio e di riscoperta anche di se stesso. Però è interessante via via che questo film è tutto basato sulla possibilità di nuocere o di conoscere o di avere rapporti con le persone qualora si individuino e sconoscano le loro più intime passioni. Si è scritto un anno fa a Facebook, ma ha ancora 30 amici e non deve amare molto la madre. Pensa che l'ha lasciata in attesa di approvazione dell'amicizia. Il suo profilo è statico, si limita a osservare quello che fanno gli altri. Ha messo in sequenza il suo update status per 4 mesi della prevedibilità fatta persona. A parte il lavoro, queste sono le sue giornate tipo. Lunedì pizza e DVD con l'amica. Martedì tè shopping, mercoledì cinema perché costa di meno. Giovedì orario lungo in ufficio, venerdì in casa a pulire a fare il bucato. Sabato concertino jazz di cui è appassionata o gita fuori porta, ma raramente. E domenica vibratore dell'ultima generazione, l'On My Bud, che collegato all'iPod Nano vibra al ritmo di musica. Immagino che è musica. Naturalmente il porsi in un social network, il mettere la propria identità in rete, già è una prima maniera per abbandonarsi al gioco di ti faccio vedere, ti mostro, ti anticipo, ti faccio intuire, però anche tu fammi capire cosa c'hai dentro. Infatti, guardate, ne è la prova matematica il fatto che stamattina il pubblico di solito così loquace, così attento, così vibrante, così pronto a mettere in luce gli aspetti patologici della società, le cose che non vanno, quello che noi vorremmo che fosse, senza zitto, nascosto, non telefona a nessuno. Mentre su Facebook vedo che ci sono degli auto da fede, le confessioni interessanti. Valentina dice: in genere non mi interessa il privato altrui, ma certe volte avrei una tal voglia di capire cosa passa per la testa di qualcuno che pagherei oro per potergli leggere nel pensiero. In conclusione, devo dire che gli strumenti tecnologici di cui parli non attirano più di tanto, però mi piacerebbe incredibilmente poter conoscere i fatti degli altri leggendone il pensiero all'occorrenza. Sono fissato con le donne a cui è stato amputato un arto, ma anche quelle senza cervello mi piacciono. In questo periodo solo ventenni glabri e con una mazza da almeno 25 cm. Os españoles hay maduros na cama. I'd really like a double penetration. Master spietato, cerca schiava del signore conscio del suo ruolo. Eventualmente scopo matrimonio. Eu divirto-me a fazer desaparecer na minha virilha os meus genitais. Assim faz uma mulher sem operações. Luca Martera, questo è soltanto una parte audio di quello che accade nel film. L'investigatore inglese passa in mezzo alla gente, poi passa a Roma, città cosmopolita, attraversata da tutti i linguaggi, da tutte le etnie e nazionalità possibili, e infatti coglie, percepisce come appunto avesse un radar mentale tutto quello che pensano tutte le persone, in tutte le lingue. Una sorta di Babele delle passioni nascoste. Sì, perché oltre a mangiare e lavorare, l'attività principale di ogni essere umano, di ogni epoca e periodo, è il sesso. O meno pensarci, diciamo. Pensare al sesso sicuramente è l'attività più ricorrente. Quindi la cosa più divertente è che naturalmente lui capta questi gusti sessuali attribuendoli a persone assolutamente normali, dalla casalinga sfasciata al ragazzino imberbe sino al professionista. Passa per piazza di San Pietro, immaginiamo, incontra preti e sacerdoti di ogni rango e di ogni provenienza. Lì mi sono un po' divertito per i non romani. Roma forse per gli italiani è ancora la capitale del cattolicesimo, ma io posso assicurare che basta un giorno di una passeggiata a Roma e uno si accorge che è la città più pagana della terra. Questo. Andando avanti, a un certo punto, e questo è il punto che era stato toccato ieri dalla trasmissione di Chiambretti, entra in gioco quello che oggi è il grande divertimento, il grande rimpiattino sulle pagine dei più importanti giornali, il personaggio eccelso, l'uomo politico che improvvisamente, grande fustigatore di costumi, grande moralizzatore, insomma, nello standard, nel cliché più scontato, viene incastrato anche lui per una sua passionella di andare nottetempo travestito da sciantosa nei locali notturni. Caro onorevole dei miei stivali, sappiamo che ha un fidanzato di 25 anni con cui divide il letto da 10 anni. Sappiamo che il suo fidanzato è un prete. Sappiamo che lo ha adottato ufficialmente 5 anni fa. Sappiamo che gli ha fratturato 3 costole. Sappiamo che al momento è ricoverato all'ospedale. Sappiamo che è una persona onesta, un contribuente modello al punto di scaricare come spesa medica la sua croce di Sant'Andrea. Sappiamo che è una persona buona, anche se ha dato del negro fottuto a un nostro amico. Sappiamo che ha fatto affari con il povero Falce che non ecco, c'è più. Ecco, questo è il punto che ha incuriosito l'attenzione giornalistica sul film Luca Martera, perché ci vedono quasi una sorta di profetica anticipazione delle vicende di trasgressioni notturne legate a noti uomini della politica, di cui non vorrei fare altra citazione perché non se ne può veramente più, perché sono circa 2 settimane che la televisione italiana non è altro che una grande passerella di trance. Ieri, dopo aver visto Gio Stajano, un'anziana signora ottantenne portata da 2 monatti travestiti da inquisitori frati cappuccini, penso che abbiamo esaurito tutta la carrellata delle possibili visioni, potremmo passare ad altre fantasie perlomeno. Beh, Luca Martera, questa storia dell'onorevole implicato in foschi giochi sessuali non mi sembra una cosa nuovissima, se ne parla dagli inizi della nostra fortunata Repubblica. Nessuna lungimiranza, mi sono limitato a raccogliere episodi di cronaca nati con la Prima Repubblica, rielaborati, ma è tutto vero comunque. Filippo Ceccarelli ha scritto 2 libri sul letto del potere, che è un profondo conoscitore di questi rapporti che ci sono sempre stati fra potere e concupiscenza. Più uno ha potere, più deve poi amministrare questo potere anche nella rapida, veloce e concreta realizzazione delle proprie fantasie. Ecco, hai citato Filippo, al quale va restituita la paternità di questi libri e non dei succedanei, delle copie farlocche del solito Vespa. Sì, il vero archivista, esegeta e profondo conoscitore delle fonti certe, dei rapporti fra letto e potere, a cominciare dal caso Montesi fino agli ultimi casi. Filippo ogni 2 anni deve riaggiornare il suo libro Letto e Potere, perché naturalmente la cronaca fornisce splendidi e meravigliosi spunti. Quindi è soltanto laterale nel tuo film l'aspetto del potere, perché la concupiscenza e sapere i fatti altrui secondo me è ugualmente distribuita fra persone comuni e fra persone eccelse, un po' come la pornografia. La pornografia patinata è caduta in disuso perché il vero attizzamento la gente lo ottiene dal vedere il vicino di casa in performance atroci. Infatti, più che il potere, a me interessa la commistione. Il potere italiano è sempre stato tutt'uno con gli altri poteri, quindi religione, militari, eccetera. Tant'è che questo parlamentare ha una relazione con un prete, e qui non mi sono inventato niente. Volevo fare solo un accenno invece a quando nasce questa mania tutta italiana per lo spionaggio a vari livelli. Si chiamava Ufficio Affari Riservati ed è nato come emanazione dei servizi segreti, vari SID, eccetera, alla fine degli anni 50. Un particolare che magari incuriosirà molti. Si cominciò ad occupare anche di personaggi dello spettacolo alla fine degli anni 60. Federico Umberto Amato fu il responsabile, che andò a indagare su Dario, le preferenze sessuali di Dario Fo, Giorgio Gaber, Caterina Caselli, Lucio Battisti. Solo che ormai sono schede che fanno parte di una sorta di mummificazione del pettegolezzo erotico. Chi se ne frega più, parliamo di vecchietti o di morti. Ma erano militanti, questa è la differenza. Ah, quindi, vabbè, quindi per ricattarli. Quindi il film che abbiamo accennato, che era Contestazione Generale, l'episodio della bomba, è un film degli anni 70 che parlava di questo. È un film del 70 di Luigi Zampa e racconta di un regista d'avanguardia interpretato da Vittorio Gassman, che al quale viene chiesto dai dirigenti Rai di realizzare un servizio innovativo sulla contestazione. Cosa succede? Viene visionato questo servizio, ma i dirigenti Rai ci ripensano, lo stoppano, non lo mandano in onda, e naturalmente ne segue la reprimenda del dirigente che ha avuto l'ardire di far realizzare questo servizio, e viene punito. Alessandro, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Ascolti, io magari dirò una cosa un po' banale, però vorrei avere dei sistemi tecnici per piazzarli in ufficio, registrare tutto quello che viene detto, tutta la settimana, tutte le farloccherie che vengono dette, però non vorrei tenermelo per me, vorrei inserirle in un bel sistema surround e fargliele sentire, ma solo per vedere la faccia che fa. La faccia che fanno dopo tutto. Quindi dovrebbe lei avere la possibilità di fondare un network basato sulle cose che non si sanno e non si vedono nel suo ufficio? Nel senso che comunque l'ipocrisia dilaga e credo che non sia una cosa solo del mio ufficio, ecco. Quindi diciamo un bel sistema di sputtanamento giustiziero, questo vorrebbe. pizziero senza guardare in faccia a nessuno, praticamente, compreso me magari, perché magari ogni tanto mi scapita qualche cattiveria, qualche... E cosa pensa che potrebbe venire fuori? Ma magari meno ipocrisia, non mi aspetto tanto, perché la natura dell'uomo alla fine è quella. Ecco. Quindi diciamo la verità, io apprezzo il suo coraggio, che il primo e l'unico che ha avuto il coraggio di dirlo, mentre qua sono tutte verginelle, tutti dicono a me non mi interessa, non voglio sapere, figurati, me lo immagino. Però onestamente si rende conto che cerchiamo delle scuse dicendo facciamo un atto di giustizia, in realtà quello che vogliamo sarebbe il pubblico generale, globale, sputtanamento di tutte le persone che ci circondano, rimanendo noi gli unici intoccabili e chiusi nei propri segreti. Beh, oddio, mi voglio mettere in causa anch'io, nel senso che comunque non sono perfetto, magari anche a me potrebbe scattare qualcosa e di conseguenza venire sputtanato, ecco, autosputtanato, ecco, questa forse è la parola giusta. Oggi, grazie Alessandro, abbiamo un sistema generalizzato in cui l'intrusione elettronica condivisa, subita, cercata, autoprodotta è fondamentale. Parlavo con Luca Martera, il regista del film di cui stiamo parlando, che in fondo parla di questo, di una capacità di leggere al di là del pensiero i riposti e i segreti di ogni essere umano. È usata a vari livelli. Abbiamo i giornali cosiddetti scandalistici, ma meravigliosi, affascinanti, che si basano sulle foto rubate o concordate dei personaggi dello spettacolo. Abbiamo la stampa ufficiale che austeramente per mesi si è dedicata allo spionaggio di alcove, di destra, sinistra, centro, di chiunque, non si salva più nessuno, perché è chiaro, quando si comincia poi ognuno ne ha del suo e ne mette del suo, fino anche a delle forme nuove di giornalismo, se vogliamo dire. Guardavamo ieri il programma televisivo Le Iene, che ormai si è specializzato nello sconfessamento di comportamenti criminosi, come il professore universitario che si approfitta delle allieve, come ieri il prete che esorcizza le sue parrocchiane mettendo le mani nelle zone intime e via dicendo. Ecco, su questa forma ultima cosa dici, Luca Martera? Il linguaggio delle Iene è sempre al limite, perché con la scusa di denunciare a volte cavalca il fenomeno, e quindi limitandosi a suscitare morbosità o aierismo è naturalmente ascolto, perché il sesso vende sempre. Secondo me manca un livello. In Finlandia con un SMS si può denunciare il vicino che non paga le tasse. Ecco, questo io lo trovo molto civile come cosa, non è una forma di delazione. Da noi per arrivare a questa cosa ci vorrebbero molti anni, penso. Marco Lombardozzi, buongiorno. Buongiorno. Ho voluto che lei sentisse tutta la trasmissione, perché è l'unico vero esperto di ciò che noi parliamo, abbiamo citato, su cui abbiamo scherzato. Lei si occupa di disinfezione, di attenzione a questi strumenti nascosti che ognuno potrebbe mettere molto vicino alle nostre attività personali e intime. Cosa da dire in proposito? Ma esattamente, bonifica. Diciamo che il voyeurismo, se così vogliamo, oggi è molto di moda, proprio per quello che abbiamo sentito, insomma, le trasmissioni, i giornali ce lo propongono tutti i giorni. Indubbiamente ci sono livelli che vanno un po' al di là del voyeurismo e possono diventare a volte semplicemente per sicurezza, ma a volte forse proprio per incastrare, per cercare di trovare diciamo il marcio, comunque è diffusa l'idea, questa persona in qualche maniera dobbiamo fregarla, quindi mettiamogli qualcosa addosso, qualcosa intorno, per capire se ci sono dei punti deboli su cui attaccarlo. Questo in qualche modo, a volte purtroppo non è chiaro quando ti fanno una richiesta, ad esempio, di appunto mettere un sistema del genere, che può essere più vario. Scusate, soprattutto noi poi ci chiedono proprio di inventarci dei nuovi sistemi, nel senso, prendendo le tecnologie che esistono, magari le assembliamo in un qualcosa che in realtà poi non ha mai visto nessuno, proprio per andare a fare questo. Però non sai mai la realtà di questo utilizzo, se è appunto per sapere se c'è qualcuno che fa una malfatta o se vogliono incastrare quella persona. Ecco, senta, mettergli appunto Marco Lombardozzi, bonificatore ambientale, questo è il termine esatto. Sì. La sua, ecco, sì. Ma passa sempre il principio che comunque basta avere il sistema per capire che qualcosa poi da raccontare, o qualcosa per incastrare, o qualcosa per mettere in braccio c'è sempre nella vita di ogni essere umano. Ma dipende dal punto di vista, poi, nel senso che quello che noi riprendiamo, sia che i dati che abbiamo possono essere interpretati in tutti i modi, bisogna vedere poi se il dato viene messo al completo o ne viene magari presa solo una parte che di per sé potrebbe far sembrare il contrario di quello che poi è. Grazie Marco Lombardozzi, grazie Luca Martera, grazie a tutti coloro che hanno ascoltato in silenzio, perché giustamente stanno dalla propria parte di coloro che mai vorrebbero sapere i fatti altrui, che mai hanno sparlato dell'intimo altrui, che mai hanno osato mettere il naso nella sfera privata di qualche altro essere umano. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.